ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. È cambiato il suo sguardo, ecco, il modo in cui mi guardava. Ero diventato una presenza significativa per lei. Aprì la porta e mi trovai in una stanza completamente buia, in cui si intravedeva la sagoma di un letto e quasi nascosta sotto le lenzuola, più che vedere, indovinai mia nonna. Storie di nonne e di portinai in una puntata che si intitola Accudire in segreto. Adesso ascoltami, Catherine. Hai una caviglia rotta e dovrò cercare di immobilizzartela. Credo che sia fratturato anche il polso e forse qualche costolo, ecco perché ti fa male respirare. Dovrò camminare fino a Eltace. Anche se, visto il traffico che c'è nel deserto in questi giorni, è facile che mi imbatta in un esercito o nell'altro. Quindi tornerò presto e tu sarai salva. Lo prometti? Non vorrei morire qui. Non voglio morire nel deserto. Ho sempre pensato a un funerale molto importante. Con solenni inni sacri. E so esattamente dove voglio essere sepolto. Nel giardino dove sono cresciuta. Col mare davanti. Promettimi che torni a riprendermi. Te lo prometto. Tornerò a riprenderti. Te lo prometto. È il paziente inglese questo pezzo che abbiamo sentito in apertura di questa puntata. Ci sono Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, ma ci sono un sacco di altri attori in questo splendido film. Juliette Binoche, ad esempio, la regia di Anthony Minghella. È un film del 1996, è un film che ormai è diventato quasi un classico e sì, ha a che fare con il prendersi cura, perché la puntata di oggi di Linee d'Ombra si intitola Accudire in segreto. La linea d'ombra che attraversiamo oggi è quella del avere confidenza, ma solo fino a un certo punto. Avere una confidenza, ad esempio, tra una nonna e una nipote, e nella seconda storia tra una giovane donna e il portiere del palazzo in cui lei vive. Per cui c'è una linea di demarcazione che in nessuna delle due storie viene varcata, però in qualche modo entrambi i protagonisti della storia si prendono cura dell'altra persona, della persona che sta loro vicino, la nipote con la nonna nel primo caso e il custode con la giovane donna nella seconda storia. Che abbiamo preso direttamente da Modern Love, che è una rubrica del New York Times, ma è anche tradotto in Italia in un libro molto bello pubblicato da Rizzoli, che vi consiglio. Sono brevi storie di amori particolari, lo trovate in libreria, magari per quest'estate può essere una bella compagnia. Ma accudire in segreto vuole anche dire pensare ai propri ascoltatori, esattamente quello che facciamo noi qui a Radio 24, noi qui a Linee d'Ombra, perché questa è l'ultima settimana con storie, puntate originali di tutta questa stagione. Torneremo ovviamente il 31 di agosto con le vostre storie, Linee d'Ombra @radio24.it, ma dalla prossima settimana non vi abbandoniamo, siamo sempre nel pomeriggio di Radio 24 con un'ora di storie, con il meglio delle storie raccontate in questa intera stagione qui a Linee d'Ombra, ma non alle 15, attenzione, bensì alle 16. Alle 15 prosegue lo sport, prosegue tutti i convocati con Carlo Genta, Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo, ovviamente. Noi invece arriveremo alle 16 per tutto il mese d'agosto e per l'ultima settimana di luglio, soprattutto. Quindi quello che noi faremo per tutta l'estate sarà raccogliere le vostre storie. Ci basta una pagina, massimo due pagine, di una storia che abbia a che fare con un confine, con una linea d'ombra che avete varcato. Può trattarsi di una vacanza, può trattarsi di lavoro, può trattarsi di una storia d'amore, di un lutto o di una malattia che avete varcato e oltre la quale siete andati. Insomma, una linea d'ombra, un confine attraversato e poi magari dimenticato, oppure invece un confine che è ancora lì, lo vedete ancora davanti a voi, avete forse non avete il coraggio, la forza o chissà che cosa per varcare quel confine. Ecco, vi raccontiamo storie di questo tipo, lo facciamo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, riprendiamo il 31 agosto, vi ripeto, continuiamo ovviamente per tutto fine luglio e per tutto il mese di agosto, alle 16, dalle 16 alle 17 su Radio 24, ma dal 31 di agosto riprendiamo alle 15 con le vostre storie, e quindi mandateci lineedombra@radio24.it, altrimenti mettetevi comodi che noi ora cominciamo a raccontare. La puntata si intitola Accudire in segreto. Benvenuti a Linee d'Ombra. I miei nonni paterni, nonna Ida e nonno Ugo, belli ed eleganti insieme, erano il prototipo di coppia della piccola borghesia calabrese. Nonna Ida, un po' austera, con lo chignon sempre ben fatto, e nonno Ugo con il borsalino e l'abito grigio da impiegato. Erano affettuosi, ma nello stesso tempo contenuti nelle loro manifestazioni di affetto verso noi nipoti. Eccezion fatta verso la prima nipote, rigorosamente chiamata Ida come la nonna, nel rispetto della buona tradizione meridionale, e quindi di diritto privilegiata. A lei era riservato l'uovo di Pasqua speciale. Era suo il diritto di lunghe vacanze coccolata dalla nonna e dagli zii. C'era poi mio cugino Michele, primo nipote maschio, e come tale anche lui degno di particolari privilegi. Io, cronologicamente, mi collocavo tra i due. Questo è il contesto in cui io avevo vissuto la mia infanzia di ragazzina tranquilla, studiosa, sempre sorridente, facilmente accontentabile con poco. In mezzo ai due nipoti favoriti, la prima nipote dal nome della nonna e il primo nipote maschio, mi ero ritagliata un ruolo di secondo piano, di cui non soffrivo, ma della cui subalternità, anzi, non avevo la minima consapevolezza. A noi tre, negli anni a venire, si aggiunsero altri tre cugini, ma gli equilibri familiari ai miei occhi non subirono troppi cambiamenti. Dei nonni, ai quali pure volevo molto bene, avevo un po' soggezione. Mi sembravano così perfetti e irraggiungibili nei loro modi beneducati, sempre a posto in ogni situazione. Ero incuriosita dal fatto che la nonna si rivolgesse al nonno chiamandolo Don Ugo, in modo alquanto formale. Ero poi impressionata dal fatto che non avessi mai visto mia nonna spettinata, nemmeno di prima mattina. Un giorno avevo sentito nonna Ida che rimbrottava mia zia Cesira, una zia nubile, simpatica ed ingenua, che sfaccendava di buona lena ancora in vestaglia. La nonna, invece, ben vestita come sua abitudine, le spiegava pazientemente che se la padrona di casa si presenta in ordine ben vestita a un ospite improvviso, nessuno farà caso al disordine della casa. Ma, al contrario, una padrona di casa in disordine farà apparire tutta la casa sciatta e trascurata. Non credo che mia zia sia stata convinta di questa spiegazione, e anch'io devo confessare che questa filosofia di vita, per quanto affascinante, non ha dato l'imprinting al mio stile attuale di padrone di casa. Mia nonna, quando io avevo da poco compiuto 11 anni e frequentavo la prima media, si ammalò e fu ricoverata in ospedale. Noi nipoti non fummo informati direttamente, ma tra il parlottare sottovoce degli zii, qualche cenno da parte di mio padre e di mia madre appresi anche io che la nonna aveva avuto un infarto e che era stata ricoverata all'ospedale dell'Annunziata, in città. Io, in quell'anno, frequentavo la scuola media in via Rivocati, nell'omonimo rione, non lontano dall'ospedale. Anche se la scuola, un vecchio casermone riadattato ad edificio scolastico, era piuttosto distante da casa, io la raggiungevo ogni mattina da sola a piedi. Anche al rientro non trovavo nessuno a riprendermi e dunque mi avviavo a passo svelto verso casa. Affamata e desiderosa di fare il resoconto della mattinata a mia madre, che dal canto suo mi aspettava con il piatto pronto in tavola. Mia nonna era una presenza forte in casa, però io nello stesso tempo la ricordo come se fosse stata dietro le quinte. Era una famiglia tutto sommato matriarcale. Di nonna io apprezzavo i dettagli, la cura delle cose, per esempio il suo modo di apparecchiare la tavola era speciale. Un giorno, verso la metà dell'anno scolastico, qualche giorno dopo aver capito che la nonna stava molto male, capitò che un insegnante si assentasse e ci facessero uscire da scuola un'ora prima dell'orario previsto. Io feci un rapido calcolo mentale e mi dissi che se fossi andata subito in ospedale a trovare la nonna, avrei fatto in tempo a tornare a casa alla solita ora, senza far impensierire mia madre. Non mi balzò alla mente nessuna difficoltà. Mi avrebbero fatto entrare? In fondo ero ancora piccola, i ragazzini non erano ammessi in ospedale, neanche accompagnati. Figurarsi una ragazzina da sola. Avrei saputo muovermi in quei corridoi tutti uguali e poi ero proprio sicura che il numero della stanza fosse quello che avevo sentito sussurrare agli zii e che io avevo registrato mentalmente. Non mi posi nessuna di queste domande e, in men che non si dica, mi ritrovai all'ingresso dell'ospedale. Passai con disinvoltura davanti al gabbiotto del custode, imboccai un corridoio, chiesi ad un'infermiera con molta sicurezza dove fosse la stanza con quel tal numero e nel giro di pochi minuti all'uscita da scuola mi ritrovai da sola davanti alla porta chiusa di quella stanza di ospedale. And then you realize you're riding on the power of success, this heavy-handed metaphor. And I feel like you've been here before, 'cause you've been here before, and you've been here before. And then a word washed ashore, then a word washed ashore, then a word washed ashore. So many. Meno sicura di me di quanto non fossi stata fino a quel momento, aprii la porta e mi trovai in una stanza completamente buia, in cui si intravedeva la sagoma di un letto e quasi nascosta sotto le lenzuola, più che vedere, indovinai mia nonna, probabilmente addormentata. Mi avvicinai al letto, ma non osai chiamarla e dopo pochi minuti, in punta di piedi, uscii delusa dalla stanza. Mi misi a sedere su una panchina posta poco più avanti, da cui avrei potuto vedere chiunque si fosse avvicinato, e mi misi a contare mentalmente i minuti che passavano. Comunque decisa a non andare via, fino a quando non fosse stato necessario, per non tardare il mio rientro a casa come da orario scolastico. Sembrava di avere fatto una cosa molto sciocca, ma in cuor mio ero comunque contenta perché, anche se mia nonna non mi aveva visto, io sì, avevo visto lei. Non so quanto tempo abbia passato su quella panchina di metallo, fredda, dura, con i piedi penzoloni e l'aria assorta, quando all'improvviso, a voce alta e con tono deciso e insieme dubbioso, mi sentii chiedere «Cosa ci fai tu qui?». Era mio zio Eugenio, il più giovane fratello di mio padre, venuto anche lui in visita alla nonna. Gli spiegai come mai mi trovassi lì da sola a quell'ora insolita e lui, a quel punto, mi accompagnò dalla nonna, la chiamò e le disse che ero lì anche io, da sola, venuta apposta per salutarla. Mia nonna sorrise, ma nel buio della stanza non fui sicura che mi avesse visto davvero e mi avesse riconosciuto. Non ricordo poi come fossi rientrata a casa, se a piedi come sempre o se poi mio zio mi avesse accompagnato, ma ricordo che dell'episodio nessuno parlò, neanche per rimproverarmi, come ormai cominciavo a temere fosse giusto e inevitabile. Intanto sono rimasta molto sorpresa di quello che avevo visto, questa stanza buia, ma buia, ma buia, che più buia non si può, perché sembra che allora appunto un infarto venisse curato con l'estremo riposo, ma in questo stato, in questa condizione di assoluta oscurità. E mi sono sentita contenta d'averlo fatto, di essere andata, d'averla indovinata, come dicevo, tra le coperte, tra le lenzuola di quel letto, e nello stesso tempo mi chiedevo se avesse avuto senso questa cosa, però poi penso invece che ne abbia avuto molto, sia per me che per lei. Dopo circa un mese mia nonna fu dimessa dall'ospedale e, tornata a casa, riprese ad essere come sempre inappuntabile e ai miei occhi severa e austera. Un pomeriggio di domenica andammo a farle visita, io, mia madre e mia sorella, l'amatissima sua nipote Ida. E qui avvenne l'incredibile. Mia nonna era pronta per uscire, credo per andare a messa, con un bel tailleur dal collo e un ampio risvolto su cui era appuntata una magnifica spilla di oro e di rubini, una sorta di cerchi concentrici legati dalle pietre. Io mi avvicinai a lei e, stupendomi io stessa del mio ardire, le dissi che quella spilla era bellissima, le stava molto bene. Lei mi guardò e mi disse, accarezzando la spilla, «Quando sarai grande, te la regalerò». Fui così felice e stupita di questa sua promessa, fatta proprio a me, che non osai parlarne con nessuno. Fui certa però che quella mattina in ospedale aveva capito esattamente tutto. Mia nonna purtroppo, dopo appena qualche mese dal suo ritorno a casa, da quel primo ricovero in ospedale, fu colpita da un altro infarto che non riuscì a superare e morì ancora piuttosto giovane. Io avevo 11 anni, ero troppo piccola per ereditare quella spilla che mi aveva promesso in gran segreto. Come era ovvio, quel magnifico gioiello passò di mano in mano alle sue due figlie ed io ho continuato ad ammirarla sui soprabiti, sulle giacche, sugli abiti delle mie zie, pensando che loro non lo sapevano, ma io sì. Io sapevo che quella spilla che ostentavano con giusto orgoglio era mia, apparteneva di diritto solo a me, che virtualmente l'avevo ricevuta in eredità da mia nonna. Presso il camino sonnecchia la nonnina, con quella cuffiettina il nonno la contempla, e col pensiero lontano, sfiorandole i capelli, le mormora pian piano, eri bella quel giorno, nonnina, eri un angelo, un raggio di sole, io ti presi la bianca manina, sussurrai le più dolci parole. Questa puntata, che ha già un titolo di cui io sono molto felice, il titolo della puntata è Accudire in segreto, è una puntata a cui tengo moltissimo per mille modi, lo so che ogni tanto lo dico, insomma lo dico spesso questa cosa, però credetemi che quando lo dico è perché lo penso. Vi dicevo, ci tengo particolarmente perché la storia che racconta Rita è una storia che sembra veramente tirata fuori dalle viscere della memoria, ed è una cosa che sembra anche piccola, minuta, un incontro, una fuga da scuola per andare a trovare la nonna in ospedale, dalla quale non succede nulla di trascendentale, ma che nella sua memoria e spesso nella memoria di ognuno di noi, ricordi e avvenimenti come questi evidentemente hanno un'importanza che è molto più grande di quanto noi ci immaginiamo. Pronto? Ciao Rita, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te. Come stai Rita? Come ti senti? Tutto bene? Abbastanza bene, sì, grazie. Un po' emozionata, devo dire, perché è una storia, come dicevi, è talmente personale che è strano che io debba raccontarla, farla sentire così a tutti. A tutti. Senti, tu questa storia l'avevi raccontata a qualche parente, non so, a tua mamma, a tua zia, quando era accaduta? No, no guarda, è stata una storia che tutti in famiglia conoscevano, un piccolo accadimento, ma di cui evidentemente abbiamo avuto tutti un grande pudore. Nessuno ne ha parlato, era un fatto che era accaduto, era qualcosa che io avevo voluto fare veramente in accudimento, come dici nel titolo della trasmissione, mm-hmm, per mia nonna, e che era rimasta lì. Senti, sì, ma questa figura della nonna così austera, insomma, sembra veramente una figura letteraria. Era veramente così tua nonna? Era così distaccata e remota? Guarda, se fosse così non lo so, per me era così e nella mia memoria era questo, era una nonna presentissima, in famiglia era sicuramente un fulcro, però non appariva, però era così rigorosa, così piena di attenzioni per le piccole cose, ma sempre con un'enorme discrezione. Questo è il ricordo che io ho di lei. Invece poi tu nella vita che cosa hai fatto, Rita? Siamo sempre sul privato, comunque come dicevo ad Anita... fino a dove puoi spingerti, sì, Rita? Volevo solo sapere che lavoro avevi fatto. No, posso spingermi tranquillamente. Ho insegnato e poi ho fatto un lavoro bellissimo, il lavoro di preside in una scuola, con un rapporto eccezionale con i ragazzi. Sei in pensione adesso? Adesso sì, sono in pensione. E ti manca quel lavoro? E quel lavoro mi è mancato, adesso forse un po' meno, e poi sai, gli anni si fanno avvertire, quindi sì, però mi è mancato. Però ho la fortuna di vivere nel quartiere in cui sono stata come dirigente negli ultimi anni di attività, e mi capita quindi di incontrare ancora dei ragazzi, ed è buffa la cosa perché mi salutano istintivamente dicendo ciao, E poi mi si correggono, buonasera, buongiorno, con tono più ufficiale. Certo. E quindi questo in qualche modo... mi è successa la cosa... La stessa cosa con il mio preside del liceo, che appunto per me rimaneva semplicemente il preside Malvezzi, però l'ho incontrato in un contesto in cui c'erano altre persone, io ero già un uomo adulto e per un po' gli ho dato del tu, poi gli ho detto guarda, le chiedo scusa. Lui, insomma, c'è stato questo scambio divertente. Sì. Senti Rita, ne approfitto, anche se tu diciamo ci hai mandato una storia e di quello parliamo, però vista la tua autorevolezza anche nel campo, tu come la vedi questa situazione della scuola rispetto alle ripartenze di settembre? Cioè pensi che abbia senso comunque ripartire, abbia senso far rivivere la scuola, far tornare i ragazzi negli istituti scolastici? Cioè sarebbe un dramma non ripartire? Secondo me è doveroso farli ripartire, secondo me è doveroso. Bisognerebbe veramente evitare di sperperare a volte tante risorse, di investirne tante sulla scuola perché i ragazzi possano ripartire, vivere in sicurezza. Poi, sai, dipende dalla fascia d'età. Per i ragazzi più grandi, quelli dei licei, delle scuole superiori, può essere utile anche qualche giorno da remoto. Si possono pensare delle alternanze, ma per i bimbi, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola media, io ritengo che sia assolutamente necessario che ritornino tra i banchi. Senti, e chiudiamo. E quella spilla? La spilla della nonna che fine ha fatto? La spilla della nonna, non so, si è persa nei miei andri della famiglia, credo che sia andata. Mio padre aveva due sorelle, quindi due figlie di mia nonna, per cui è andata a loro, insomma, questa spilla, se la sono passata. Non so se esiste ancora, se qualche altra nipote magari la possiede o se si sia rovinata col passare degli anni. Ci piace immaginare, a me personalmente piace immaginare che insomma farà un lungo giro e alla fine magari ritornerà a casa, insomma ritornerà dove la nonna aveva pensato che finisse. Rita, grazie mille, davvero grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te Matteo e buon ascolto. A presto. grazie mille. Subtly kind, I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see, evidently it pays. I've been a friend with unbiased views and then secretly lust after you, so now you feel una storia bellissima quella di Rita, ed è stato un piacere sentirla e sentire della sua viva voce il rapporto che aveva con quella nonna. Credo che ognuno di noi abbia un ricordo legato alla nonna, magari non tutte così austere, ma abbiamo un ricordo particolare legato ai propri nonni, che rappresentano nel nostro immaginario i genitori buoni, sono quelli che ci permettono di fare le cose, sembrano più anziani e forse più saggi e spesso sono meno normativi dei nostri genitori. Insomma, parlo per me, ma immagino che sia un pochettino così per tutti quanti. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Accudire in segreto si intitola la puntata di oggi, e dopo la storia di una nipote e della nonna, ora arriva una storia che viene da quella splendida rubrica del New York Times che si chiama Modern Love. Noi l'abbiamo letta però in quel libro italiano che è pubblicato da Rizzoli, che appunto ha quel titolo, Modern Love. Questa è una storia di affetto e di accudimento che noi troviamo splendida. È un accudimento davvero silenzioso ed è un accudimento tra una giovane donna e il portiere del suo palazzo. Si svolge a New York. Gusim era il portiere del mio palazzo e tra noi era nata un'amicizia abbastanza comune a New York, ma di cui non si parla mai, quella tra una donna single e l'uomo che funge da guardia del corpo, confidente e padre. Portieri che ti proteggono e che custodiscono molto più del pacco con le scarpe che hai comprato su internet, e lo fanno non perché fa parte del loro lavoro, ma perché sono brave persone. Gusim è un uomo gentile ed educato, uno di quegli uomini maturi con i capelli grigi che somigliano a Cary Grant e George Clooney. È nato in Albania a metà degli anni 40 in una famiglia di militari. Suo padre era un generale dell'esercito. Quando aveva 19 anni, la polizia segreta del regime comunista di Enver Hoxha ha arrestato e internato tutta la sua famiglia con l'accusa di alto tradimento. Ha vissuto per 20 anni in un campo di lavoro simile ai gulag staliniani, in mezzo al nulla, dove lo obbligavano a lavorare la terra. «Ci ho passato tutta la giovinezza», mi ha detto. Non si è sposato, non ha avuto figli. Ne è uscito a 39 anni. Gli Stati Uniti hanno concesso l'asilo politico a lui e alla sua famiglia e si è trovato un lavoro come portiere in un palazzo di lusso qui a New York. Ogni volta che gli chiedevo come stava, mi rispondeva invariabilmente «Non mi posso lamentare». Era il suo mantra. La notte di Halloween, non riuscendo a dormire, sono uscita in pigiama, maglietta e Uggs per andare in farmacia. Rientro per una volta senza accompagnatore, salgo i gradini di corsa attraverso l'atrio con un sacchetto bianco in mano. Dentro al sacchetto c'è un test di gravidanza. Gusim è seduto sul bordo dello sgabello, come sempre. Alza gli occhi dal New York Post e mi chiede «Che succede?» «Niente, perché?» gli dico. «Che cosa succede?» ripete lui. «Niente». Alzo il sacchetto per mostrarglielo e faccio per proseguire. «Sono le pastiglie per l'emicrania». «No», fa lui scuotendo la testa e piegando il giornale. È impossibile ingannarlo. Mi sono fermata e ho dato un'occhiata in giro. Mezzanotte era passata da un po', c'eravamo solo noi due. Meglio così, ho pensato. Sono tornata indietro. «Credo che... non lo so», gli dico, poi mi sono morsa il labbro. «Questo mese non...» e sono scoppiata a piangere. Gusim ha aspettato e poi mi ha chiesto «È il ragazzo dell'altra sera?» «Sì», gli ho risposto, «e non mi piace nemmeno», asciugandomi le lacrime. «È un bugiardo», ho detto, «non posso passare il resto della mia vita con lui». «E allora non farlo», ha detto Gusim, sistemandosi i polsini della divisa. Siamo rimasti a parlare per 2 ore. Al padre ho annunciato che ero incinta 2 settimane dopo. Ha reagito con gioia e orrore insieme. Poi, in capo a qualche settimana, mi ha persino proposto di sposarci. Ho rifiutato con delicatezza. Sapevo che non voleva diventare padre e che non volevamo sposarci. Lo sapevamo entrambi. 3 mesi dopo, quando si cominciava a vedere la pancia, ho dato l'annuncio ufficiale. I miei genitori cattolici e sposati da più di 40 anni erano molto in ansia per il mio futuro di madre single. Sono diventata argomento di pettegolezzo. Chi era il padre? L'avevo lasciato io oppure era stato lui a mollarmi? Tutte domande legittime che a volte mi venivano poste direttamente, altre volte invece circolavano alle mie spalle. E nell'atrio del palazzo c'era sempre Gusim, perfettamente imparziale. Non ero sua figlia, non ero la sorella, né una ex. Non ero né una sua dipendente né la sua capa. I nostri mondi non si incrociavano. Per 6 giorni a settimana se ne stava nell'atrio e quando ci incontravamo era distaccato ma anche abbastanza affettuoso da poter essere considerato un ottimo amico, né troppo ansioso né troppo compassionevole. Con Guzim abbiamo parlato parecchio durante quei 9 mesi. La sua presa di posizione è sempre stata risoluta. Mi ha sostenuto e ha reso onore alla mia scelta, proteggendo la mia dignità e la mia autostima. Mi ha ricordato che ero ancora giovane, che in futuro avrei senz'altro incontrato un altro uomo e mi sarei sposata. Arriva il mese di agosto, sono fuori città per il fine settimana e mi si rompono le acque. Pastorisco a Providence, Rhode Island, e 2 giorni dopo i miei mi caricano in macchina e mi riportano a New York, Upper West Side. Sono a casa. Quando mio padre ha accostato al marciapiede, Guzim ha riconosciuto la macchina. È corso subito ad aprire la portiera del passeggero. Sapeva chi c'era dentro. Sono scesa in condizioni pietose, esausta e piangente. Ci siamo abbracciati. Mi sono voltata, ho sganciato il seggiolino e l'ho tirato fuori. Siamo rimasti a bocca aperta davanti al bambino che dormiva. Era di una bellezza incredibile. Bella, ottimo lavoro, ha commentato Guzim. 9 giorni dopo, il padre di mia figlia se n'è andato per sempre, dicendo che suo padre stava male. Eravamo amici, in buoni rapporti, e per un anno ho continuato a mandargli foto della bambina via email. Nei lunghi e faticosi mesi successivi alla nascita, mi chiamava e scherzavamo, mi aiutava a rimanere sveglia. Però non è mai stata la faccia del suo papà quella che le vedeva quotidianamente, ma quella di Guzim, che ci dava il buongiorno e la buonanotte, che le sorrideva e le faceva le coccole e si complimentava per quanto era cresciuta, per quanto era bello il suo sorriso, si esaltava per le sue prime parole. Il padre è rimasto in contatto per poco più di un anno, poi è scomparso. Niente più mail o telefonate. Spedivo foto, ricevevo soltanto silenzio. Mia figlia ha subito voluto bene a Guzim, come se capisse istintivamente qual era il suo ruolo. Guzim l'aveva accolta a braccia aperte, le aveva fatto dono del suo cuore ed era sempre stato pronto a sorvegliarla e proteggerla, proprio come aveva fatto con la madre. Appena ha imparato a camminare, la vedevi correre a braccia tese incontro a Guzim sul marciapiede e lui la prendeva, la alzava e la stringeva in un abbraccio. Suo padre non si fa sentire né vedere e noi non lo cerchiamo, ma andiamo a trovare Guzim. Ora viviamo in California, ma quando passiamo da New York andiamo sempre a cercarlo. A volte c'è, altre volte non lo troviamo, ma proviamo sempre. Lui mi chiede come sto e io, guardando mia figlia, gli rispondo: non mi posso lamentare. Questo brano si intitola The Girl Who Felt to Hurt, la ragazza caduta sulla terra di Guts Combis. È un brano che il nostro Luca Michedi ha scelto proprio perché è stato usato nel primo episodio della serie televisiva che si chiama Modern Love, che è tratto esattamente da questa storia. Sì, perché noi questa storia l'abbiamo letta su quel libro, appunto, che si intitola Modern Love ed è pubblicato in Italia da Rizzoli. Ve lo consiglio se volete passare magari un'estate tra storie di amore, diciamo, non convenzionale, o meglio, ma nemmeno non convenzionale, storia di persone che si vogliono bene in qualche modo. Vi consiglio di leggerlo, ma ne è stata tratta anche una serie da Amazon Prime, se volete vedere la trovate lì. Il primo episodio è esattamente questo, è la storia di Guzim e di questa giovane donna che si chiama Julie Margaret Hogben, è l'autrice di questa storia, è un'insegnante ed è madre di una bambina. Ora vive a Los Angeles, è ancora single, perlomeno così dice la sua biografia sul libro, e questa storia è uscita 5 anni fa, quindi la sua bimba oggi ha già anche bei 5 anni e noi idealmente le facciamo un sacco di auguri. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui la nostra storia seriale, la storia di Antonina Zotti. Linee d'ombra. Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani Mini, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Abbiamo raccontato la storia di Antonina Zotti, la stiamo raccontando in maniera cronologica, o meglio, siamo partiti dalla sua giovanissima età, da quando era 4 anni vede suo papà Nicola Zotti ucciso per mano della mafia perché lottava per la riforma agraria, per la redistribuzione del terreno in una Sicilia che era già oppressa dalla mafia in quegli anni, proprio nel secondo dopoguerra. La mafia cominciava a prendere piede, a prendere mano e a prendere soprattutto terreno. Insomma, siamo partiti da lì per raccontare questa storia. Abbiamo raccontato la sua vita, le fatiche, la miseria, finalmente poi il momento in cui trova un lavoro, diventa maestra e poi il matrimonio e l'amore e la vita finalmente non più oppressa dalla povertà. Ma c'è un momento particolare, che è un momento topico della vita di Antonina Zotti e corrisponde con l'anno delle stragi, il 1992, ma nemmeno l'anno, l'estate delle stragi, perché tutto comincia col maggio del 92 con l'uccisione di Giovanni Falcone e prosegue poi nel mese di luglio con l'uccisione invece di Paolo Borsellino. Ebbene, in quel lasso di tempo succede qualcosa, succede che la Sicilia si solleva, Palermo si solleva, le piazze si riempiono di persone, al nord, in tutta Italia finalmente si parla di questa cosa, non se ne può fare altrimenti, insomma, se sono esplose delle autobombe che hanno una distrutto un'intera via e l'altra invece ha divelto, non era un'autobomba, era una bomba passata sotto attraverso uno skateboard sotto una tubatura, ha fatto saltare in aria letteralmente un pezzo di autostrada, quella davanti a Capaci, dove ancora oggi, se ci passate, c'è un monumento alla memoria. Insomma, non si poteva non vedere quello che era accaduto. Ebbene, però a Palermo, nelle strade di Palermo, succede qualcosa, le persone scendono in strada e tra loro c'è Antonina Zotti, che trova il momento, la possibilità e coglie quell'attimo, cioè coglie l'attimo per dire finalmente queste cose succedevano già 50 anni fa e mio padre ne è stato una vittima. Ebbene, comincia così l'episodio di oggi, comincia in realtà qualche giorno dopo quell'uscita, qualche giorno dopo quella manifestazione, durante un'altra manifestazione. Abbiamo anche sentito la voce di quella donna che tutti noi ricordiamo, la vedova Schifani. Quello che abbiamo sentito in realtà è la registrazione avvenuta in chiesa il giorno del funerale, ma l'abbiamo risentita perché Antonina ne parla in questa puntata, ne parla, la sente di nuovo parlare ad una manifestazione, e lì parte una serie di domande che lei stessa si fa, che la porteranno a cambiare prospettiva e finalmente a uscire allo scoperto. Il 27 giugno 1992 mi ritrovo goccia nella fiumana dei 100.000. Sono persone giunte da ogni parte d'Italia che con i palermitani inondano la città da cui dilaga prepotentemente la voglia di riscatto. Sono trascorsi 4 giorni dal mio primo grido pubblico sotto l'albero Falcone. Mi trovo subito immersa in un vocio sommesso, controllato, in cui riconosco presto numerose inflessioni. L'Italia c'è tutta. Pure quelli del nord hanno finalmente capito che Cosa Nostra non è una cosa solo nostra. A mezzogiorno ci troviamo tutti in piazza Politeama, ma nessuno mostra segni di stanchezza. Al microfono del palco allestito a ridosso del teatro si alternano personaggi politici e rappresentanti sindacali. L'unica voce che mi fa vibrare d'emozione è quella di Rosaria Schifani, giovane vedova di una delle 5 vittime. È vestita tutta di nero, pallida, scarna, tesissima. Rosaria grida di nuovo il suo dolore, proprio come aveva fatto durante il funerale in cattedrale, quando invitò i mafiosi a inginocchiarsi per chiedere perdono dei loro atti. Quella vedova Schifani era a piazza Politeama. piangeva. Io sì, ho provato invidia per lei, ho provato invidia perché il mio pensiero è corso a mia madre, che non ha potuto avere neanche la consolazione di gridare il suo dolore, di condividere il suo dolore, di superare il suo dolore attraverso la condivisione, di ricucire quelle ferite che sono rimaste per noi sempre sanguinanti. Mia madre dovette abbassare la testa, tacere, soffocare il dolore, reprimere la rabbia, umiliare ogni rivendicazione di responsabilità e mortificare ogni aspirazione a una giustizia riparatrice. Mamma dovette rinunziare alla possibilità di raccontare la sua condizione di moglie di un martire. La sua posizione di vedova di un sindacalista ucciso dalla mafia la poneva in stato di accusa. Per un momento invidio la vedova dell'agente Schifani, che può gridare il suo dolore ad alta voce, e la invidio anche se lei è l'immagine stessa del dolore. Vedo attorno a me tanti occhi lucidi di lacrime che la scossa degli applausi fa scendere lungo le guance. Piango anch'io. Penso al mio morto ammazzato, di cui nessuno dei presenti conosce nulla, a cui nessuno ha mai tributato un solo applauso. Mi ritornano sensazioni già provate, ma che mi procurano un dolore sempre nuovo. E in questo dolore non mi sento più con gli altri, ma sola. La manifestazione finisce, arriviamo a casa stanchi, il ricordo di mio padre impegna totalmente la mia mente e il mio cuore. Cerco di scaricare la tensione, accendo la TV, passando da un canale all'altro, mi incuriosisce uno spot contro la mafia. La scena che lo spot propone è un pugno nello stomaco. Mi viene a mancare addirittura il respiro quando un lungo elenco di nome scorre veloce sullo schermo. Sono vittime di mafia, a cominciare dagli anni 40. Li leggo uno dopo l'altro, con uno sguardo rapido e vorace perché nessuno dei nomi possa sfuggirmi. Ma anche questa volta manca il nome di mio padre e di tutti i martiri della lotta per la riforma agraria. Non furono quei caduti le prime vittime della lotta antimafia per l'affermazione della legalità? Al dolore si aggiunge una rabbia esplosiva, riaffiora un antico senso di colpa che mi ha posto in una condizione debitoria nei confronti di mio padre. Che cosa ho fatto io perché gli si riconoscesse almeno il diritto alla memoria? Se ora il suo nome non scorre insieme agli altri, la colpa non è anche mia. Cosa mai posso aspettarmi dagli altri? Alzo di impulso la cornetta e formulo il numero che appare in sovrimpressione. Attendo qualche attimo in linea a chi mi risponde dalla sede RAI di Palermo. Spiego il motivo della mia chiamata. La telefonata passa a chi può dare una risposta ai miei perché. È il giornalista Diego Buonsangue. E mi è sembrato vero, anche perché avevano notizie da dare, alla televisione non si parlava che di questo, quindi avere del materiale nuovo, del materiale allora faceva, e poi è stato anche molto sensibile proprio come persona, come indole. Sì, me ne è sembrato vero, mi ha parlato, si è scusato, mi ha preso l'appuntamento per il domani. Oh, domani scopriremo cos'è accaduto dopo quella telefonata. La storia che Mauro Pescio raccoglie direttamente dalla voce di Antonina Azzotti proseguirà fino a venerdì, quando appunto poi la prima stagione di Linee d'Ombra si chiuderà. Venerdì sentiremo quindi la voce di Antonina, la chiameremo al telefono e faremo una chiacchierata conclusiva con lei. La ringraziamo ancora, ringraziamo lei, ringraziamo Mauro Pescio, io ringrazio Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni che fanno questo programma. Vi ricordo che da lunedì prossimo Linee d'Ombra si sposta di un'ora, dalle 15 lasciamo spazio allo sport, dalle 15 alle 16, quindi dalle 16 per l'ultima settimana di luglio, per tutto il mese di agosto andrà in onda un meglio di tutta la stagione e poi dal 31 agosto ritorniamo a raccontare, quindi continuate a mandarci le vostre storie di confine, Linee d'Ombra @radio24.it. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.